Nel futuro che cosa c'è per il movimento? Mario Pianta, economista, una tra le voci più vivaci, interessanti del movimento No Global. Sicuramente questo è un momento cruciale per lo sviluppo di questo movimento. Questo è un momento in cui si passa da manifestazioni di 10.000 persone a manifestazioni 10-20 volte superiori, quindi la quantità di persone che viene coinvolta, spesso per la prima volta, è enorme. Quindi si tratta di capire qual è la direzione che questo movimento riuscirà a darsi dopo Genova. Ricordiamoci che il mondo non finisce, il movimento tantomeno dopo Genova. C'è già una serie di appuntamenti molto fitti che già ci fanno capire qual è la strada. Il fatto di inseguire i vertici è sempre meno importante, continuerà sicuramente ad essere un appuntamento questo, ma molti degli appuntamenti sono autonomamente costruiti da queste reti di società civile globale, che adesso non è tanto, non è più solo il problema di dire esistiamo, vogliamo mettere sul tavolo della discussione dei grandi, degli argomenti che i grandi ignorano, ma il problema è quello di sviluppare una proposta politica autonoma, sempre più ricca, sempre più articolata, sempre più credibile, e reti di organizzazione più stabili che permettano a questi movimenti globali di diventare un elemento permanente del quadro politico internazionale. Invitati anche della mattinata Sabrina Siniscalchi, segretario generale dell'Associazione Manitè. Quanto incide la globalizzazione sull'impoverimento complessivo del pianeta? Incide molto, perché se guardiamo ai dati, alle statistiche che ci vengono dati dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario, in realtà la povertà sta aumentando e aumenta man mano che aumenta anche il divario tra ricchi e poveri, per cui siamo in una situazione paradossale: cresce la ricchezza e non è mai stata a un livello così alto nella storia dell'umanità, ma cresce anche la povertà. Quali sono i continenti più colpiti, se possiamo fare una scala? Anche se la povertà è presente nei paesi industrializzati, quindi nei paesi ricchi del nord, si concentra, diventa un fenomeno di massa nei paesi del sud del mondo, in particolare nell'Africa subsahariana, ma anche in larghe fasce dell'America Latina. Paesi ricchi come il Brasile hanno al loro interno sacche enormi di miseria, in Centro America e nel subcontinente indiano e nel sud-est asiatico, come fenomeno nuovo. Nel tuo intervento hai parlato anche della situazione nell'ex Unione Sovietica. Sì, anche lì i poveri stanno crescendo, perché laddove si apre al libero mercato, togliendo qualsiasi forma di intervento da parte del potere pubblico, dello Stato, nel campo sociale, immediatamente c'è una polarizzazione sociale ed economica che penalizza ovviamente i settori sociali più deboli. Per cui in Unione Sovietica i poveri sono passati da 7 milioni di 5 anni fa agli attuali 14 milioni. Come rispondere invece a coloro, quindi, che invece sostengono che la globalizzazione dà posti di lavoro in più? C'è stato dato proprio stamattina un dato interessante dal rappresentante del movimento indiano, il quale diceva che se in India gli investimenti sono aumentati del 400%, l'occupazione è aumentata solo dello 0,4%, quindi non c'è assolutamente un rapporto di proporzione diretta tra gli aumenti degli investimenti, quindi la maggiore attività, la maggior dinamicità delle imprese e l'aumento dell'occupazione. Noi abbiamo proprio nei vicoli un ospite al telefono, Alessandro Dallago, preside della Facoltà di Sociologia di Genova. Buonasera. Buonasera. Lei è proprio lì, nella zona blindata? Sì. E cosa è cambiato da ieri? Ci hanno montato le reti fondamentalmente partendo da questa notte, in alcune zone questa notte, in alcune invece questa mattina, e ci sono piccoli varchi, però di fatto, insomma, direi che la zona rossa è già partita, di fatto, perché anche dove si può circolare, però ci sono drappelli di poliziotti e carabinieri ogni angolo di strada. C'è un clima veramente bizzarro, devo dire, perché alcuni vecchi dicono: ma neanche al tempo del nazismo si era vista una cosa del genere, cioè ogni angolo di strada un poliziotto, un carabiniere, un finanziere, drappelli, gruppi che fermano le persone, eccetera. E sono quasi tutti, anzi direi nella grandissima maggioranza, di altre città. C'è una varietà, direi, un'antropologia poliziesca molto, molto varia, moltissimi hanno l'area di ragazzini e così via. Il moltissimi negozi sono già chiusi, già da ieri, già stamattina sono chiusi. Tenga conto che il centro storico ha una popolazione molto particolare, no? Ci sono, diciamo che c'è una tipologia locale molto particolare, insomma c'è gente, anziani, stranieri, giovani, alternativi, insomma non è un luogo omologato come può essere un quartiere periferico. E da questo punto di vista le reazioni spesso sono molto dure, cioè la gente è molto scocciata, no? Perché oltre ai fastidi c'è questa presenza simbolica, ma non solo simbolica, molto forte di uno Stato, insomma qui c'è una tradizione molto particolare, no? Devo dire, questo è indubbio, anche magari non di massa ma molto puntuta, molto visibile, e questo si avverte molto. Siamo proprio in quel luogo che sarà deputato all'accoglienza e allo smistamento delle persone che arriveranno qui a Genova. I gruppi continuano ad arrivarne, per singoli gruppi oggi per tutta la giornata continuano ad arrivarne, man mano che passano le ore evidentemente anche aumentano. Poco fa si è fermato proprio qua un pullman con 50 persone arrivato dall'Irlanda. Chi arriva vuole giustamente sapere dove andare a dormire. Mi chiamo Peter, sono belga, dormo non so dove. Che gli amici stanno chiesando adesso dove dormiamo, però qualsiasi posto va bene. Qu'est-ce que tu feras vendredi? Comment est-ce que tu conçois ta résistance? Non lo so, sarò nel corteo dove si divertire di più, forse dove c'è la musica, se la trovo. La mia resistenza non penso non sarà violente, perché qui siamo con amici pacifici. Ci sono questi tre posti, principalmente la differenza in base a come si è attrezzati. Chi ha la tenda sa che dovrà andare in un posto che è la Valletta Cambiaso, cioè un giardino pubblico messo a disposizione dal comune, e lì piantare la tenda. My name is Nora, I'm 18, I'm from Germany. While I'm here I'm sleeping in that park where there's kind of camping in there. I'm not quite sure what I will do on Friday. I think I will join that group what I think is most effective, or will well, the chances be the biggest that we can reach something. And how I conceive my resistance, I think, is a resistance here can also only be symbolic. Gli altri due posti sono lo stadio Carlini e una piscina, la Sciorba, che è abbastanza distante da qua, ma comunque è attrezzata con un tendone, eccetera. My name is Ulla, I'm 21 and I'm from Finland. I'm living in Carlini Stadium. Resistance for me is just living like I want to live and let everybody else live like they want to live. Qui comunque informano chi arriva che presso lo stadio, per esempio, vanno ad alloggiare tutti quelli che si ritrovano nel percorso delle tute bianche, dei centri sociali. Dicono anche dove mangiare, ci sono due tendoni attrezzati a mo' di festa dell'unità dove si mangia di tutto, c'è una specie di ristorante, poi ci sono i panini, piadine, tutto quanto. Quello che si aspetta è evidentemente imponente. Infatti, proprio qui davanti a me, a ridosso degli scogli, ci sono dei pallet con sopra delle bottiglie d'acqua. Mi sembra di aver capito che siano tra le 40.000 e le 50.000 bottiglie, quindi già soltanto questo dovrebbe dare un'idea della massa di gente che si aspetta in questo posto.